Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Oui, je suis Catherine Deneuve. Ho capito che ti amo. E mi permette, signorina. Si accomodi pure. E come si chiama? Bella di giorno. Ma che sei tu de moi, toi qui parli si bien, toi qui dimmi. Era Catherine Deneuve, la Marianna di Francia, la star francese più popolare nel mondo. Oggi, a un giorno dall'inizio del Festival di Cannes, trasmettiamo la prima parte di un faccia a faccia che ho fatto con lei a Parigi tempo fa. Catherine Deneuve, parigina, figlia d'arte perché i genitori erano attori di teatro. Studi regolari al liceo La Fontaine nella Parigi elegante della fine degli anni 50. Esordio a 14 anni, ma il successo arriva dopo l'incontro con Roger Vadim, l'uomo che le ha dato un figlio. L'altra figlia, Chiara, sarà il frutto di una lunga relazione con Marcello Mastroianni. Diventa la donna nuova degli anni 70, avventurosa, fragile, dolce, pericolosa e perversa. Dalla metà degli anni 60 è la star preferita degli intellettuali e dei registi drammatici come Chabrol, Buñuel e Polanski. La consacrazione ufficiale nel 64 con la vittoria della Palma d'Oro a Cannes col film Le Parapluie de Paris di Jacques Demy. Oggi per la Francia è diventato un simbolo, i francesi a maggioranza l'hanno scelta come la Marianna in sostituzione di Brigitte Bardot. Bella come poche donne, la sua fama non le ha tolto la misura del buon gusto e, se occorre, della modestia. Per gli americani è lei la donna più bella del mondo. Allora, signora Deneuve, lei è stata definita un po' da tutti, americani, europei, lo sa, la donna più bella del mondo. Ecco, che effetto le fa questa definizione? È pesante. Fa molto piacere come un complimento, ma con gli anni diventa molto pesante. Ecco, ma è più lusingata oppure più spaventata da questa definizione? No, devo dire la verità, all'inizio la prima volta che l'ho sentito mi ha fatto piacere, ma come un complimento, fa piacere sul momento, ma non è che dura. Ma People l'ha proprio scritto, l'ha definito. Un complimento fa meno piacere che fa male una cosa cattiva. Signora Deneuve, comunque piano piano probabilmente dover essere sempre la donna più bella del mondo può stop. Essere diventata anche un'ossessione. Oggi dico stop, no, per me no. No, cioè questo no. Dover essere no, sempre. Di fatto è un po' pesante quando devo fare delle cose in pubblico dove so che la gente può essere delusa, ma se veramente a questa immagine di bellezza ci tenevo non dovrebbe mai essere pubblica, diciamo, anche in televisione, perché la televisione è una cosa molto, non banale, ma da tutti i giorni, che dà una prossimità che non va bene per... Quindi ci ride sopra adesso questa cosa? Sarebbe molto dire che rido sopra, ma cerco di allontanare questa immagine dicendo poi non è vero, adesso è vero che l'ho sempre detto e fa piacere, ma non è una cosa, delle donne belle io ne vedo molto. Però voglio dire, lei si sente o si vive di più come una diva solitaria oppure come una persona tra la gente? Una persona tra la gente. Si sente persona tra la gente? Prima di tutto perché la parola diva mi sembra molto forte. E che io vivo in un modo molto speciale perché è un mestiere molto speciale, ma se no nella vita, quando non lavoro, ho una vita abbastanza privilegiata, ma normale. Io amo molto essere nelle strade, nella camminare, realtà. Andare al ristorante, questo lo faccio senza... Ah, lo fa tranquillamente, quindi lei insomma... Più o meno, sì, più o meno tranquillamente. Io sono venuta a piedi da casa mia per venire qua a fare questa intervista. La gente mi guarda, mi chiede un autografo, ma non è che mi disturba. Non ha paura della folla? Posso avere paura... No, ma la gente nella strada, sì, per della me strada, ha sempre da dire. Fare, dunque non è la folla. Sì. Potrebbe essere più difficile, per esempio, quando sto al Festival di Cannes, una cosa importante, tutta la gente è qua, poi guarda solo una persona, allora è una cosa quello che diverso. Può dare un po' fastidio, ecco, paura. Ma, signora Deneuve, ma se le dicono che lei è fredda, che è aristocratica, distante, la fa ridere, è vero o no? No, no. O le fa piacere? No, non è vero, non mi fa piacere perché... io trovo che la parola fredda è usata un po' troppo facilmente per le donne o gli uomini che sono un po' riservati o che hanno una certa distanza con la gente che non conosce, e questo sarebbe il caso mio. Io la gente che io non conosco posso essere molto gentile. Come si dice, attirée. Sì, attratta. Attratta, Ma se io non ho una cosa speciale, non è che io sono gentile con tutti e che sono abbastanza riservata. Ma è curiosa? Ma fredda, no. Ma è curiosa della gente o no? Sì, molto. Cioè è interessata agli altri? Ma io penso che tutti gli attori, anche quelli che dicano che non sono mai nel pubblico e che vivano molto preservato dalla vita pubblica, io penso che gli attori senza essere attratti dalla gente non è possibile non essere attore. No. Ecco, lei un giorno ha detto, ho trovato questa citazione. È in un giornale italiano? Mi dirà se è vero, no, allora un giornale francese. Ah. Senta, ha detto, detesto la stampa quando presenta un attore dicendo che ha gli stessi problemi, gli stessi sentimenti, gli stessi piaceri e le stesse tristezze della gente normale. È vero. È demagogico e anticulturale. In che senso? Non capisco. Io trovo che troppo facilmente si fanno delle domande agli attori nel senso che per andare nel senso pubblico le risposte si vanno nel senso di dire anche noi abbiamo dei problemi, anche noi abbiamo dei problemi di sentimenti, di vita, di tutto. Io trovo che è vero, ma non è al livello che si può dire in televisione a tutto il pubblico, perché la vita degli attori è una vita che è molto privilegiata. E dei problemi ce ne ho, degli enormi dei problemi in qualche periodo, più che delle altre. Ma in questo senso dice è demagogico? Ma è nel senso di dire siamo come voi. No, non sono, io sono molto privilegiata, non vuol dire che io sono più felice, ma io ho degli però altri problemi e io non voglio dire anche io, forse faccio le stesse cose della gente, le stesse orrore, però, e ho gli stessi piaceri nella vita, ma la nostra vita è una vita molto... Signora Deneuve, ecco, lei ha detto l'ha trovato in un giornale francese, un giornale italiano, perché? C'è una polemica perché, qui sotto? No, perché io trovo che i giornali italiani prendano una libertà incredibile con le persone. Ah. Sì, sì. Una parola o l'altra è la stessa cosa. Sono molto... Speriamo che le citazioni siano tutte da giornali francesi. Di fatto preferisco fare un'intervista in televisione oggi che parlare in una... Certo. Ma anche in Francia è difficile, perché io non faccio televisione in Francia. Perché? Perché scelta, è una scelta, perché in Francia i film degli attori sono molto sullo schermo senza... Quindi basta così. E io penso che basta così. Signora Deneuve, lei ha detto anche, ho molte difficoltà a vivere con me stessa, a educarmi, a darmi un equilibrio. Ecco, ma difficoltà che derivano da cosa? Perché il mestiere di attore è fatto su un equilibrio molto, molto pericoloso, che è fatto molto di squilibrio e che... Si vive solo così, si può veramente perdere il senso, poi utilizzare le emozioni personali e vivere su un punto troppo pericoloso. Ecco, ma quando parla di educarsi, a che cosa si riferisce? Cioè, che tipo di educazione pensa di essersi data? Io ho lavorato molto giovane, ho fatto dei film molto giovane e penso che quello che so di più nella vita l'ho appreso attraverso il mio mestiere. Dunque diciamo che un'educazione che si è fatta attraverso la gente, poi ho avuto la fortuna di lavorare con degli registi molto importanti, e che di natura io sono molto curiosa. E allora è una scuola libera. Ma l'educazione è più quella che si è data oppure quella che ha ricevuto? A quella che ho ricevuto, io penso che questa educazione si fa nei primi anni della vita. Infatti ne parleremo. Nelle 10 anni della vita. Ma lei... nella sua vita, nella sua formazione, ha contato di più suo padre o sua madre? È molto difficile, perché ho perso il mio padre alcuni anni fa e allora è vero che sono molto attaccata alla mia madre. Ma io penso che... Pensandosi da piccola, diciamo. Io penso che come in tutte nelle società di matriarca, quando gli uomini lavorano sono le donne che fanno l'educazione. Ma io penso che l'educazione del padre è più una presenza morale che veramente essere qua a casa. Ecco. Oggi cambia molto, perché ci sono degli uomini oggi che preferiscono lavorare meno e avere i primi anni con un bambino a metà. E lei come lo giudica questo? A me mi piace molto questa idea. Io trovo che... Cioè, le piacerebbe aver avuto... Io amo molto il le padre donne, dei suoi figli ma vicino. Io trovo... Ma i padri vicini è difficile, se uno lavora non si può fare molto, molto di più. No, ma io penso che è importante per un bambino di avere più uomini vicino a se stesso. E per questo penso che ci dovrebbe essere più uomini a scuola, piccoli, per bambini piccoli. invece che le maestre, sono più maestri che maestre. Sì. Ah, interessante questa. Signora Deneuve, lei ha detto, e questo sicuramente l'ha detto perché l'ha detto a François Sagan, e poi l'ha ripetuto anche allora. Adesso, ha detto che pensa che Freud abbia ragione, l'ha ridetto anche prima, quando afferma che tutto quello che conta avviene durante l'infanzia. Ecco, lei per sé quando l'ha capito questo, riflettendo su di sé? Penso che l'ho capito quando ho avuto delle difficoltà, diciamo, verso le 20, 22, 23, 24 anni. Mi sono renduto conto che nel fondo l'educazione si faceva, la vita si andava avanti, si sapevano di più delle cose, ma quello che pensavo profondamente delle relazioni con gli altri, che è la cosa che mi importa di più nella vita. Comunque, Catherine Deneuve, che per molti dicevamo prima è la donna più bella del mondo, da piccola aveva anche lei il complesso della sorella maggiore di Françoise, più grande di lei, mi pare che fosse attrice, un anno e mezzo. Ecco, che tipo di complesso c'era nei suoi confronti, o che tipo di rapporto? C'era il complesso, diciamo, non era talmente un complesso che una relazione di forza, come ci sono sempre nelle famiglie quando ci sono troppo donne. Nella mia famiglia c'erano solo donne. E mio padre di fatto era molto contento perché lui amava solo le donne, dunque aveva lui era perfetto. Io ho tre sorelle, dunque con la mia madre e cinque donne a casa, certo. Lui era molto contento. Ma le relazioni di forza, perché la mia sorella era molto forte, aveva una personalità molto importante, e un anno e mezzo di differenza non è molto. No. Allora c'era una grande bagarre per sopravvivere. Io ho otto fratelli, lo capisco. Ecco, violenti, senta, molto violenti i rapporti, anche fisicamente. Noi si vi picchiavate? Molto? Sì, abbastanza. Ma vi amavate anche molto? No? Molto. Cioè vi aiutavate? Io l'amo profondamente. E lei era gelosa o no di lei? Perché lei faceva l'attrice di lei. Sì, no, non su quel punto, ma sul punto che da un colpo lei è diventata, sai, a quell'anni fra 16 anni e 18 anni, una ragazza diventa veramente. La mia sorella aveva 2 anni di più, ha fatto la fotomodella. Io sono andata in Inghilterra per fare un mese di vacanze per la scuola, sono tornata con le gonne e le socchette bianche, no? E lei stava qui con questo. Dunque era più, non era gelosia, era più ammirazione. Un'invidia. Invidia di vedere questa donna, era diventata per me una donna. Ma è la solidarietà su cos'era invece? È la solidarietà che io sento per le altre donne. Istintiva? Istintivamente io sono per le donne, nel senso che se posso fare qualcosa di positivo per una donna, io mi sento più vicino a una donna e non sento una donna come una rival, diciamo. Ma lei ha avuto più solidarietà? E anche per la mia sorella, mi ricordo quando io ho lavorato forse 2 o 3 anni dopo lei, dunque era la stessa età di lei, i problemi non erano mai su delle cose di lavoro, di cose di il fatto che facciamo lo stesso mestiere, no. Lei ne ha sofferto più di me. Ma avete mai amato gli stessi ragazzi? No. Abbiamo dei gusti talmente differenti, siamo molto, molto differenti nel carattere, molto, molto differenti. Lei era molto aperta, molto... Signora Deneuve, quando è che ha capito che il cinema era la sua vita, o sarebbe stato la sua vita? Tanti anni fa. Io penso che quando ho fatto il film con Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, e lui mi ha talmente aiutato, perché io ero molto timida, era una cosa molto paradossale per me di essere attrice e di essere così timida, era per una cosa quasi strana, perché una mi hanno più buttato la mia sorella, mio padre mi ha molto aiutato, ma io ero un po'... Suo padre faceva l'attore, no? Sì. Di teatro? Sì. Ma lei il teatro non l'ha mai fatto? No. Le fa paura? Sì. Perché? Perché? Perché no? Perché sì. Mi fa paura perché mi fa paura essere sul palcoscenico, e mi fa paura anche di andare solo sul palcoscenico a prendere un premio. Ecco, devo prendere una pillola, io sono molto nervosa. Senta, ma non lo sente come un limite la sua formazione di attrice? Non è una limitazione per gli altri, ma per me profondamente sento che un giorno penso che questa è la cosa che mi fa il più paura, è che io sento che un giorno devo farlo. Non le piace rischiare? Beh, no, forse no. Secondo lei gli eroi non esistono? Io penso che sono un po' pazzi. Sì, sì. Oppure si sono sbagliati? No, io penso che c'è un bisogno di esistere agli occhi degli altri, di superare la sua propria vita, di... E per questo ci sono più uomini, perché hanno più bisogno di... Anche adesso? Anche adesso, beh, io penso che forse perché io non ho un obiettivo, diciamo, che per me quello che faccio nella vita, nel mio mestiere, è molto, mi dà molto, molto soddisfazione. Non sono contenta di me stesso, ma il mio mestiere mi dà molto molto piacere, mi porta molto, tante cose nella vita. Ecco, lei pensa che sia ancora la sua vita il suo mestiere? Sì. Sì, nettamente. Io penso che non sarebbe possibile. Non riesce a immaginarsi solo... senza la Catherine Deneuve attrice. Sì, questo sì, ma senza il cinema no. No. Dunque, in un modo o l'altro, penso che sarò anche sempre anche nel anche cinema. Dietro, produttrice. Sì, forse una cosa così del genere, perché io non mi vedo fare del cinema davanti alla camera per tutta la vita. No, penso di no. Perché? Perché io amo troppo il cinema per accettare di vivere un altro modo il mio mestiere. Io ho la fortuna di vivere, di fare quello che voglio, di avere delle parti stupende, avere dei sceneggiatori che scrivano delle sceneggiature, ma questo deve cambiare un giorno o l'altro. Certo, naturale. Forse cambierò, forse dirò preferisco essere davanti alla camera ogni modo, ma oggi non lo penso. Non lo penso. Signora Deneuve, una volta lei ha detto vorrei arrivare a un punto in cui mi sia possibile incassare una sconfitta senza rischiare troppo nella carriera. Ah beh, vedi, è quello che diciamo sul rischio. Forse sono una persona che non vuole rischiare. Mi piace avere delle... come si dice, non delle but, ma degli obiettivi importanti, perché mi dà molto, mi dà l'impressione che sono vivante, che sono... Ma alla donna Catherine Deneuve? Alla donna non vuole più il rischio di niente, no. Di niente, basta. No, no, io penso perché ho paura, sì, ho molto paura di soffrire. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS a Roberto Dico, che ci chiede se mandiamo interviste vecchie quando non abbiamo voglia di lavorare. Gli rispondo, dico che mandiamo interviste vecchie quando ci sembrano belle e interessanti. Musica. Metropolitana, che sorpresa ti ha... No, oggi niente riservato. Metropolitana, no. Oggi è successo che non ho dormito, quindi mi sono mosso a piedi, solo, niente metropolitana, e quindi al mattino presto, con la bella luce che arrivava, con l'aria spalancata su tutte le belle promesse, perfino il traffico si trasfigurava in un tappeto di canti, che erano quelli degli uccelli, e siccome si arrivava... quasi in visita da tutti i luoghi del lontano, da qualche parte ho immaginato che il sole, entrando dentro il mare, faceva l'amore, ed è questa la sorgente di tutti i sentimenti, per come sta cantando Giuni Russo in questa straordinaria canzone, ed è questa sorgente dove le gocce d'acqua, perfino quelle di una fontana, sono arrivato qui a Piazza Esedra, qui a Roma, fanno volare il cuore. Ed era appunto uno stare in parallelo, tutta una camminata dentro Roma fino ad arrivare in un giardino con la finestra a vaneduzza, dove è bello stare perfino soli. Mario, qui non dorme più nessuno. Mamma mia, un disastro. Pubblicità. Mix 24. E allora Mario? China Girl. China Girl. Vabbè, perché David Bowie? Perché China Girl? Perché succede che il taglio dei tassi da parte della banca centrale cinese, la Bank of China, ovviamente ha spinto su le borse, non tutte quelle asiatiche, però quella insomma in Cina va. Nello stesso tempo però le tensioni sul mercato dei titoli pubblici in Europa si sono propagate anche agli Stati Uniti, questo è interessante, dove i tassi dei titoli del tesoro sono schizzati al massimo da un anno, perché colpiti da un lunedì record di vendite. Quindi in realtà stanno tutti aspettando la mossa della Federal Reserve, che però tarda. È tarda perché non si capisce quanto è forte la ripresa. I dati sull'occupazione oscillano. Sì, i dati sull'occupazione continuano a oscillare di mese in mese. Vediamo se si consolida ulteriormente. Credo che alla fine, dopo giugno, alzeranno i tassi, credo. Tutti si muovono come se camminassero su un vetro finissimo, no? E quindi si sta, chi lo rompe per primo si paga. Decide. Chi paga. Lo rompe paga. Questo è molto importante per l'Italia, tutto questo scenario, perché ricordo che noi abbiamo il terzo debito pubblico del mondo. Non c'è dubbio. Quindi tutto quello che riguarda i tassi, se si alzano, scendono e così via, per noi sono miliardi. Soldi in più da pagare. Esatto. Sara Tardelli. Mi chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto. Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino. Vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. E con le foto che ci faccio? Quando torna col certificato di nascita mi porta anche le fotografie. Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita. Mi favorisca la sua carta d'identità. Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, ecco le foto. Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la carta d'identità. Io vengo dallo sportello 16. Se non mi dà la carta d'identità io non le do il certificato di nascita. Io sono andato allo sportello 2, come mi hai detto tu. E quello dice che se non gli do la carta d'identità non... La burocrazia. Tutto a posto e niente in ordine. Oggi si parla della TASI. Tutto a posto perché sulle scadenze non fanno mai confusione. Infatti la TASI si paga entro e non oltre il 30 giugno. Niente in ordine perché le modalità di pagamento della TASI sono un tantino variabili. Cioè, devo chiedere il bollettino precompilato o me lo manda il comune direttamente? La legge del 2014, che già modificava le modalità di pagamento della TASI, sosteneva che i comuni assicurano la massima semplificazione dei versamenti dei contributi con modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta. Bene, facile, vuol dire che se lo chiedo riceverò il modello precompilato. Però c'è anche l'articolo 5 di un decreto ministeriale che stabilisce che il comune può inviare il bollettino precompilato. Quindi io il bollettino precompilato lo chiedo, però il comune me lo manda solo se riesce, senza stress. Sai che mia mamma impazziva per Arbore. Quella... Posso fare una cosa privata per una volta? Posso? Certo, come no. Tanti auguri mamma. Ah, tanti auguri alla mamma di Mario. Il compleanno. È il compleanno. Sì. Salamino. Lo diceva sempre Andreotti, e Giulio Andreotti in tema di potere l'azzeccava sempre, non sbagliava mai. Diceva: per vincere le elezioni bisogna vincere in Trentino, Alto Adige e in Sicilia. E lo ha ricordato questo precetto Michela Biancofiore, lo ha ricordato giusto ieri, perché il PD, cioè il partito di Renzi, ha vinto, e ha ragione Andreotti. Io ho attraversato l'Alto Adige. Ha attraversato l'Alto Adige, Renzi si è preso l'Alto Adige, e la Sicilia ce l'ha già bella che presa, con tutto il pienone di riciclati passati sotto le insegne vittoriose del Partito Democratico, che è pur sempre lo sponsor, ricordiamolo che fa bene, perché uno vede Renzi, lo vede così caruccio, però è pur sempre lo sponsor di personaggi tipo Rosario Crocetta. E poi ho scoperto che ai noi, ahimè, Ignazio Marino pure è di sangue siciliano, quindi chi più ne ha più ne metta, ma ha ragione Andreotti. Io ho attraversato l'Alto Adige. Si attraversa l'Alto Adige ed è finita giù al nord. Come è finita giù al nord? Con... è finita col sorpasso, perché per usare una metafora renziana è stato puro asfalto, cresce la Lega e scompare Forza Italia. Ed è il tonfo che prepara la catastrofe che arriverà alle regionali di fine maggio. Quindi addio alle percentuali a due cifre per il partito del Cavaliere. A Bolzano ha preso il 3,75%. Allora, il PD si crogiola col fattore C. E il C, lo C che dir si voglia, è quello di Matteo Renzi. A destra invece si mette in cantiere il Partito Repubblicano e si punta sul fattore B. Pier Silvio e Marina hanno rispettivamente già versato 100.000 euro per questo benedetto Partito Repubblicano. Ma alla fine, se svegliamo i ricordi, vogliamo sentirla questa musica? Era la sigla della tribuna elettorale e in effetti ha ragione Berlusconi, il Partito Repubblicano l'ha fatto, perché questa percentuale era quella del partito di Ugo La Malfa. Ha indovinato Storace, non c'era bisogno di trovare altri riferimenti, la percentuale c'è già, solo che ha sbagliato in una cosa, dice non è il partito di Barack Obama, quello è il Partito Democratico francese. Oggi anch'io alimento le bolle con Francesco Cavallaro, neo segretario della CISA, la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi. I numeri di oggi ci dicono che la quota di assunzioni stabile è passata dal 36,61 al 41,84 dello stesso trimestre di quest'anno. Allora il Job Act funziona? Secondo me bisogna analizzare bene i numeri, perché non dobbiamo dimenticarci tutti i contratti a tempo determinato che sono stati trasformati a contratto a tempo indeterminato. D'accordo, questo naturalmente, però questi sono i dati delle assunzioni, delle nuove assunzioni. Voi dite che è una riforma mancata, perché? Ma perché secondo me le riforme vanno fatte proprio cucendo il vestito in base a... Sì, ma che cosa è mancato? Riforma mancata perché? Mancata perché secondo me le riforme a costo zero non si fanno, e prima di fare una riforma del costo del lavoro andava fatta una buona riforma del fisco. Senta, secondo lei, che ha molti iscritti nella pubblica amministrazione, la riforma Madia va bene? Secondo noi no. Perché? Perché la settima ottava riforma e non vengono tenute in considerazione alcuni aspetti principali come i lavoratori. Cioè, che vuol dire? I lavoratori sono l'oggetto della riforma. Perfetto, è proprio per questo, non si sta facendo una riforma tenendo in considerazione la vera professionalità che i lavoratori possono mettere in campo, e si stanno facendo solo esclusivamente dei tagli lineari. No, nella riforma Madia vengono previste le valutazioni specifiche dei lavoratori e dei dirigenti soprattutto. Ma anche prima venivano previste tutte queste cose. E tutti erano approvati, adesso forse ci sarà una selezione meritocratica. Forse, noi ci speriamo. 800240024, numero verde, 349-238-6666, sms, Mario La Bolla. Ho fortuna a Carmina Burana, perché ce ne vuole. Dopo la sentenza della Consulta si apre un buco teorico e pratico, come sapete, di 19 miliardi, parlo di pensioni. Nessuno ha ancora capito in realtà come si coprirà tutto questo. La buona notizia è che l'Europa è paziente, nel senso che la Commissione si è dimostrata finora molto elastica. Deve essere paziente punto. Con la Grecia e paziente anche certo, con noi. Direi. Quindi probabilmente si troverà una via d'uscita, rateizzazione. Adesso vediamo cosa si inventa. È un problema serio. Sì, molto. Senti, va bene, dopo il giornale radio avremo, no, anzi prima questa volta, avremo la seconda puntata della storia della Cia Marina. Che cosa ci racconti? E anche...